La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. L'articolo 80 riguarda i trattati internazionali e riguarda soprattutto il potere parlamentare di controllo e di approvazione, perché tradizionalmente i trattati e gli accordi internazionali vengono stipulati dal governo, ma tuttavia un accordo internazionale, quando viene stipulato dal governo, non ha alcuna efficacia nel nostro paese, perché per entrare in vigore serve l'approvazione parlamentare. Questa approvazione parlamentare rappresenta una forma di controllo e rappresenta un pieno ossequio alla sovranità del Parlamento su ogni settore dell'attività pubblica. Ecco allora che l'articolo 80 precisa che le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, soprattutto per i trattati in materie principali, e quindi i trattati di natura politica, che prevedano arbitrati o regolamenti giudiziari, che importano variazioni del territorio, oneri alle finanze o modificazioni di legge. L'articolo 80 rappresenta una norma essenzialmente tecnica, perché è la disposizione che ci fa capire qual è la modalità per far entrare in vigore i trattati nel nostro ordinamento giuridico, in quanto, lo ripeto, non basta l'approvazione governativa del testo di un trattato, ma serve alla fine la verifica parlamentare e la trasformazione in legge. Punto molto importante è qual è l'efficacia di un trattato nel nostro ordinamento giuridico, perché un trattato internazionale ovviamente comporta la responsabilità politica dello Stato, ma dal punto di vista giuridico quel trattato per il nostro sistema italiano resta semplicemente una legge ordinaria. Su questo punto una precisazione importante è contenuta invece nell'articolo 117. L'articolo 117 della Costituzione, entrato in vigore solo nel 2001 dopo la riforma costituzionale, specifica che i trattati internazionali hanno una particolare forza in Italia, perché l'Italia deve adeguarsi agli obblighi internazionali. Ecco allora che soprattutto alcuni trattati internazionali più importanti in materia più generale diventeranno anche dei vincoli per la legislazione ordinaria. L'esempio più classico è quello della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, approvata nel 1950, conosciuta comunemente come CEDU, che ha una sua Corte di Giustizia con sede a Strasburgo. Questa convenzione è divenuta legge in Italia, si tratta di una legge ordinaria perché approvata ai sensi dell'articolo 80, ma gli obblighi contenuti in questa convenzione sono obblighi che vengono normalmente ritenuti superiori alle leggi ordinarie.